10, attenzione binario 10, se va a ascoltare qua il tulipano nero. Attenzione binario 10, attenzione binario 10, se c'è qualcuno in ascolto cambio. Binario 10, se andate ad ascoltare qua il tulipano nero. In ascolto dei nomadi. Stiamo trasmettendo 30 minuti con i nomadi, il gruppo più longevo del beat italiano, pop rock. 1963 a oggi, ancora immutati. Bosticchio e Doci, amica e sta voce, Popacchio è bello e amica fa bordello, scascio. Poproscio che non è sacro, paraculo. Due parti tuo, babbo tuo che ti hai infilato il culo da piccolino, il dito. Attenzione binario 10, sono andato ad ascoltare qua. Gianni, Gianni, no non sono Leoncino, sono Claudio, chi è? Claudio, ha parlato con il tuo fascia, con il tuo fascia, i fili, no, del letto. Adesso mi sono girato al contrario, mi sto prendendo un po' di aria, non mi va di vero. Ho visto che l'antenna elettrica ne sono usciti tutti i radiali in questo momento, uno solo ne è rimasto. Ah, quella è... me l'ha detto Carla, se vado a togliermi tutto, ma già vado vigliolo, che si sparca l'età, se non ti porto gli avetto, sa, si può fare quelle antenne che piega e fa pure pulizia su quel tetto. Devo salire, sono sempre incasinato, adesso appena sto bene che mi passa il coso del braccio, ci vado una mattina, è riscaldato tutto. Ma c'è l'antenna del televisore, io da qua la vedo, proprio ce l'ho di fronte. C'è l'antenna del televisore attaccata, capito? Vabbè, gli ascoltoli anche quello. Quello sì. Ma dico, se togli il palo devi metterne uno per l'antenna del televisore, perché lui l'aveva messa sul palo dell'antenna. Io non avevo dubbio che l'antenna te l'ha avuto con la scaletta. Poi si avevano fatto le scalette fisse, proprio fissate nel muro, l'hai visto com'è? Per salire sul tetto. Sì, come quello l'ho fatto io. Io ce l'ho agganciato al cornicione per salire sopra, perché io posso salire sul tetto bene. Però poi c'è la trompetta dove lavori sopra, capito? Quindi ho fatto fare dal fabbro una scala, mi pare che ci abbia 4 o 5, sarà un 2 metri, dai, un 2 metri di scala, che c'ha i ganci che agganciano al cornicione tassellati. E poi i due barre di ferro che sono tassellate allo stesso muro, capito? Cavaga. Se no non potevo salire su, ogni volta mi dovevo prendere. L'ho fatta fare, rimane lì, l'ho verniciata in zinco, già va bene, capito? Vabbè, sono quelle bombolette per zingare, no? E allora? Quello non sarebbe male passare anche sul tubo. Sul tubo? Vabbè, no, i tubi già ci sono zingati, già sono buoni ancora. Però già si potrebbe anche fare quello lì. La trapassata non li farebbe male, non li farebbe male per niente la trapassata. Ma infatti. La bagara. Vabbè, non è tolto nessuno stasera. No. Vabbè, c'era Gianluca, Coso, Leoncino. Staranno mangiando ancora. Ma io ho già mangiato, non vedo più le pastiglie che mi risolgo, brutto dimenticare. No, Gianluca mi ha chiamato adesso, ha sentito quella cosa là e è andato al lavoro. Ci chiama dopo dal lavoro, capito? Chiaria. E dov'è io stasera? Al Gheo? Credo di sì. È di notturno questa notte. Sicuramente. Ah, sta avendo un'aria fresca, però piacevole. Perché, vabbè, ce l'ho buttata via, ho fatto l'aglio, prendiamo il peperoncino e mi è uscito troppo peperoncino, che se ne butti a mania, mi ha fatto sudare. Bertolesino, certo c'ho questo T9 nel telefonino che mi hanno preso, l'azienda ha comprato un telefono nuovo perché il mio è caduto a bagno. E non riesce a bucanino, ma non è male, ragazzi. Cos'è? Nucchia, anche io non lo sopporto T9, non mi piace. Quando faccio messaggini mi piace mettere le lettere, sono anche veloci, non c'ho bisogno del T9 che mi fa sempre sbagliare, me lo mette a ratto, cosa, no, non mi piace, non so come fanno a usare. Beh, cosa mi dica? Devo bucanino. Beh, però non so come cacchio si fa. Non lo so. Non lo so, sto controllando, beh. Dovrebbe essere, non ci sono tutta la rete. No, vado per l'aria. Dica, vedo. Su progresso. Allora, che devo anche aspettare? Se devo prendere, aspettare, va bene. Se mi aspetti un attimo vado a pigliarmi le pastiglie che mi sono dimenticato di prendere, dai, prima che mi volti a mani. E cosa, chiudi la finestra? No, devo andare a prendermi le pastiglie. E vai, vai, tanto io vado a mangiare. E poi già sono qua, dai, tanto questa sera facciamo due chiacchiere così, con questo baracchinetto di Vallamar, che non si sa mai. Io sono qua già, vado a mangiare un moccone e poi ritorno, ok? Ehi, ehi! Ma che ti... E beh, demonio! detto di Tasiricca. Sei incazzato? Incazzato. Incazzato. Otto. Ehi, cosa hai detto? Hai ricevuto un messaggio? Ho ricevuto, non ti preoccupare, è tutto a posto. Domani, quando rientra da cosa lo chiedo a Marco, quando domani sera. Così, forse lui ce l'ha senz'altro. Sì, non ce l'ho io, non ce l'ho, ce l'avevo, poi l'ha cambiato e non me l'ha dato, capito? Lui dice che mi ha mandato un messaggio, ma io non me lo ritrovo, capito? Non me lo ritrovo. Poi che stavo mangiando, dove chiacchierare con Gianni, infatti, è già torno subito. Io la conosco, problema, già non preoccupate per quello, infatti ho mandato un messaggio, l'hai visto. D'accordo, d'accordo. Ho mangiato. E a voglia, e presto anche, oggi meno male, già era ora, ma una volta. Sei tornato presto al lavoro, sì. Lo sì. Però c'erano anche documenti, sto facendo un sacco di casino per, con gli avvocati. Adesso la praticaria di USAI passa da uno, dall'altro avvocato. Adesso mi sono girato veramente del male, ho telefonato a Manuele, gli ho detto guarda che avevo c'era un appuntamento martedì, che abbiamo cambiato, ne prendiamo tutta la documentazione e la diamo alla CGL, se la dico loro, se sono in prescrizione, se no se la abbiano in culo tutti. E detto faccio come ho fatto quello lì, ho detto prendo una bombola di gas, la metto dentro allo studio e a me lo cazzo ne va un barato, me la futta ferma. Cappagappa. E che pratica ti stava seguendo? Di 5 anni, da quando stavo lavorando lo sai, mi devono dare 30.000 euro a me. Mi devono dare? E allora? Cazzarola. E non sei mai riuscito a recuperarmi? No, per 5 anni sono così, non mai, mai sono riuscito a recuperare niente, la verità. Ho 30.000 euro buttati così, ciò. In più la qualifica di 4 livello, se mi ricordo cosa di Apollo era quella, devo guardare il foglio dell'Inps, la verità l'ho ritratto stasera. E devo controllare, vedere. Raga, un casino da recuperare, una volta che non te li danno, recuperarli è sempre un casino. A me non mi interessa più che gli stipendi, mi interessa il coso a me, la verità, il resto. Perché se più che non le prendi, ma almeno pagare l'Inps più che altro. Se trovo un lavoro fisso, almeno capito, faccio il passaggio da uno all'altro, sono tranquillo. A costa da me 60 anni in pensione non ne frega niente. Beh, ma questi qui contributi te li stanno versando, sì. Sì, i contributi sono versati, quelli di USAI, perché non c'è altro metodo, se non facciamo il contributo lo messo in galera, sta pagando con la pensione. Ah, a pagare, quanto cedi? 10 anni ci. Esatto. Sarola, un po' di tempo, cosa facevi da USAI? Tecnico, più che altro, riparazione, eccetera, eccetera. Ah, pensavo un'altra cosa. E non sei mai riuscito a mettere sindacati, ispettorato il lavoro, niente. Sì, ispettorato il lavoro sì, ma il sindacato da Will non ha fatto un accidente, se ne sono battuti le balle e basta. Hai capito? E quindi fanno scaricapareri da uno all'altro, adesso mi sono girato le balle. È tutto? Stasera, adesso vediamo un pochettino, secondo me la CGL c'è la già CGL, ma sono tutti uguali, non hai capito, sono tutti uguali, quando non c'è nulla da recuperare si sbattono le balle, il corso è quello, se si è visto, si è visto. Dici, se ne sbattono io sono la CGL, se ne sbattono le balle lo stesso. Lo so, se quando non c'è nulla da recuperare no, se ne frega, la passiamo uno all'altro, capito, e quindi... Non c'è niente da fare, a un certo punto quando dicono le cose, CGL, cosa me ne frega il CGL a me? Metto l'avvocato normale e basta. E di quelli combattivi però. E infatti faccio così io, mi metto l'avvocato normale, faccio il gratuito patrocinio, che perdo che vinco, e subito già recupero qualcosa. Non me ne frega proprio niente, già paga la regione. E quanti anni è che sono passati? 5 anni hai detto? 5 anni sono passati. E nessuno ha fatto nulla. Oh, è nulla. Nessuna fatto. Cioè, le cose abbiamo recuperato il soldo dell'Inps e quelli sì. Perché li avversati, il resto ci tocca. Ma rispettato tu sei andato. Allora. Mi tocca i soldi delle cose, mi tocca, come si dice, gli stipendi, ferie pagate, tredicesime, cose del genere, quelli mi tocca, ma quel tempo non li ritiro, sono sicuro non li ritiro neanche nulla. Poi almeno diciamo che mi battano i 12 anni versati di contributi e basta, per la pensione, hai capito? 12 di quello più altri 5, e sono 17, mi mancano altri 15, mi sembra che sono, quindi posso andare anche pensare tranquillamente. 15 o 20, una cosa del genere. Via. E comunque non ti devi accontentare, se te ti spettano devi prenderti tutto. Io non mi ho fatto nulla, perché non paghi i contributi a me. Mi interessano quelli a me. Se vado in pensione, sono tranquillo, al banco. Se ci arrivo naturalmente. Comunque sia, almeno qualcosa ritiro. Vabbè, certamente che sì. Adesso sempre due ne sto facendo lavori. E sempre due sto facendo lavori adesso, per il momento. Finché non mi assumono adesso. Sto facendo documentazione per quello. Capito? Per farti assumere. Eia. Sempre lì dove sto lavorando. No, no, fa parte. Ah, scappare è meglio così, fisso? Sembra di sì. Allora cazzo, allora la grande, dai, che periodo tuo questo? Speriamo bene, guarda. Ti basta a me i contributi, a me del resto non me ne frega proprio niente. Ma se c'è dei contributi, tanto me. A me del resto è un casino, a me i contributi vanno bene. Paga. Ma non lavori solo per pagarti i contributi, no? Ho capito. Devi avere qualcosa, no? Ma è sempre lo stesso lavoro che fai tu. Esatto. Cavolo. Allora, va bene, no? E questo dei cancelli lo vuoi? E cosa ci vuole fare i cancelli? Me la bozza, no? Non sono mai qua. Non mi interessa più. A me fare un lavoro non mi interessa per niente, basta uno, ritorno a casa, piglio, mi riposo e sono tranquillo. Se fanno qualcosa ci faccio il dottore come divento, mi faccio una saltata con le ragazze che conosco lì, una pallotta che non è fatta più niente di nessuno più. No, apri la bozza e dopo mi sono incasinato, guarda, incasinato. Dopo mi sono sfruttato per gli altri, adesso basta. A me basta essere tranquillo. So che ogni giorno vado di là, ritiro tutto quello che devo tirare e non me ne frega niente di nessuno. Vabbè, e ti vivi la tua vita tranquillo, Andrea. Sì, a quanto per quello, no? Ma ce la faccio a fare due lavori, no, no, si può. O fare uno e fare l'altro, capito? Per 25 euro che sto pigliando io a fare dalle 2:30 fino alle 8 di notte, ma va bene, capito? Non sei pagato. Quanto? 25 euro. E quante ore fai? Da 2:30 alle 8 ho fatto ieri sera. Che sono 25 euro? Che cane vuoi? Appunto per quello tu stai dicendo, quindi no, non mi interessa più. Se la piglia in culo, lui con te lo mollo e va a far culo. Oh boh, 5 ore e mezzo circa ha fatto, quello che comunque sia, non lo sono pagato per niente. Però poi me lancio per i fatti miei, quando devo fare qualche lavoro nuovo lo faccio per i fatti miei. Per dire che faccio un'antenna, quanto sono 50 e 60 euro, quello che serve è tutto in nero e me li incasso io, a costo di mangiarmi in bistecchi o per dire in sardine a casa. Che faccio una festa, non me ne frega niente, ma a me non mi diverto. Capito? Non così che devo stare trovato la sera buttato, non esiste, no? Vaga, infatti. Ma almeno ti fa un lavoro, ti riposi, sei tranquillo, eh. Non come fai due lavori che tu sei stressato a casa. E infatti le cose arrivano, volevo mezzo di sera, bevo per dire un bicchiere di birra, quello che come ieri notte va, lattine. Ho preso tre lattine in pratica, di quelle attentate con le piccoline, ne ho avuto una prima di cena, due dopo che sono andata a baracchino dopo cena, dopodiché quando sono andato lì, ho fatto quelle tirate, l'ho chiuso anch'io, tranquillo, mi sono addormentato. Mi sono alzato alle 8, strano, di solito mi alzo alle 6:30 perché sono abituato a alzarmi a quell'ora. Mi sono alzato tranquillo alle 8 stamattina, sono uscito, mi sono fatto di tutto quello che dovevo fare. Sono stressato per niente, tranquillo, come un pasciaio qua. Io pensavo che eri incontro. Magari io, magari qua. Ho dato un butto al banco. Abbiamo la chiusa in offerta, mi anche tutti i siti ci sono le chiuse in offerta. Beh, hai detto l'altro giorno 99 centesimi, guarda che non sono accorto, le cose me le ricordo. Cioè, perché io più la tira dello spin, quelle piccoline. Prima di cena, dopo cena me ne bevo una, di più non puoi bere perché ti gonfia lo stomaco, certamente di quel gas, capito, che non ce la fai più a mangiare, ti blocca lo stomaco. Quanto sono dello spin? 30 centesimi sono, quelle piccoline. Da quanto sono? 33? Esatto, sì. Raga, 30 centesimi le paghi un bel poco. E quello che sto dicendo? Sono poco, cioè costa poco la roba, la verità, però è già buono lo stesso, non è che sia in chiusa, vabbè, la differenza è si sente, scusa. Vabbè, comunque il sapore è più buono quello della birra chiusa. E la cosa è logica. Vorrei cagliarsi basso. Avanti o la ola chi è? Sparito. Johnny. Eia. Allora sta mangiando un bue. Giuseppe, cazzo, senta solo di sparito, è stato in giro, a divertirsi, e è incassato, oggi era contento che Pasqua era, puzzi non si può quell'onfio, Sì, non ci... Allora... Come mai è pagato, là? Sì, la minima è entrata, si parla di là, si è spinto le cose avanti. Non lo so, Leoncino, comunque buonasera, prego, giustamente. Niente, volevo salutare a Pompone un po' senza sentirlo e a Gianni, e poi rimango in ascolto. Buonasera, Pompone, e ben sentito. Ciao Antonio, che non ci ho messo a sentirti. Saluto di ben sentito, già fino a entrare, già usando chi l'ha fatto. Potevo entrare ieri, c'era già a casa mio cognato a casa, a far cuffia a te. No, sto più ascoltando che parlando, in questo periodo non c'ho molta parlantina, ecco. Quando mi rientra di nuovo già riattacco. No, comunque è sempre acceso l'apparato, non ti preoccupare. Non si muove il baracchino, no? Già che ho sapigliato l'apparecchietto che c'avevo io a casa, che gli piace parecchio ascoltare, l'ha portata da sua, se l'ha portata, forse se lo compra, detto. E si è innamorato quando l'ha visto di quel portatile, figurati. Si è arrivato a casa sua, ha fatto un capacco, ha fatto tre sacca come ha fatto. Dice, dammelo, tranquillo, ho detto, non c'è problema, ho detto, se quanto viene, ho detto, ti arrangi, ho detto, con lui, ho detto, ah, va bene, mi ha detto, infatti c'è la casa sua. Ma ha fatto un capacco come ha fatto, con quella geccia. Oh, ne ha poche di frequenze, su internet ha caricato, porca miseria, non pensavo una cosa del genere, tutte le frequenze della famiglia c'erano di tutti, su internet. No, comunque è bello come apparato quello, e a voi altro che, aspetta che mi regolo una cosa veloce, ma lui non ne ha mai avuto, diciamo, di queste apparecchiature, è vero? Non lo so la verità, siccome lui lo sa che la vuole fare, quindi, dice, dammelo, dice, così me lo uso, dice... mi serve questo periodo, e tu usalo, io tanto ce l'ho a casa e sto fermo, usalo tu, e a me non è che mi interessa niente, la verità, perché se ne pare che è sempre a casa buttato, quindi arrangiati, l'ho detto, è passato qua, è stato qua sera, spostato da una parte all'altra, poi si era scaricato le cose, le istruzioni, poteva usare, capito, probabilmente diceva in memoria, e ha fatto un po' di casino. Te l'ho raccontato, no, stasera. Che sei di Arrea, sì. Eia. Sono mal di pancia, era. Esagerato. Parola. Non è così, soffri, soffri. E allora, Antone, sei speso a Vattaras? Io ho preso il pane e l'acqua, e poi sono rientrato a casa. A piedi. Alla braccetta ho fatto fare il giro alla signora, con mia figlia e il cane, ha fatto una spesa tutta in famiglia, dai, e poi siamo rientrati. Kappa, se le porta tappa e su circa. E beh, se no a casa, guarda, ne trivella tutte le stanze. Davvero, dannaggio. È abbastanza, Pipino, ma per il resto, guarda, le lascia un ricordino in tutte le parti, dunque... Bisogna portarlo giustamente, gli spetta. Il cane agli orari, a quell'orario lo devi portare giù. E non è quella la rottura per il cane, ma non che ce l'abbia in campagna, se no tocca portarla tutte le ore, fargli fare i bisognini e basta, e poi tornare a casa. Ma va, comunque già fa piacere, con la scusa ti voglio anche uscire per una passeggiata e non è un male, anzi. Ne approfitta alla fine. Ma diciamo, quando rientri la voglia non ne hai per così tanta, però ti aiuta. Da a fare una bella passeggiata ti fa anche bene, perché no? Antonè. Dimmi, Antonè. Forse venerdì sono a Ussimi a dormire. Quando? Venerdì, questo venerdì. Dica! Dammi un po' di baracchino, appresso. C'è la riforma magnetica 2009. Capito, l'ha notato, c'è la casa di mia sorella, capito? Al limite ti chiamola, se salgo ti chiamo subito. Così andiamo, ci facciamo un giro la notte, così una mattina li torniamo a pezzi. Ci sto, sono io per portarti, Antonè. io mi pare vero. Aspetta però, allora ragioniamo. Tu devi mettere il mio numero di telefono, ce l'hai, sì? Sì, che ce l'ho, già lo sai. E adesso, siccome il mio cognato fa il 13 la domani, come si va a comprare, adesso mi dico bene la vetta. Cioè, c'è il 9 13, 13 domani, venerdì. Adesso vediamo cosa vuol fare lui. Ti chiamo prima, capito? Così mi organizzo. Se per caso sono a Rossi, io con Simona la notte, usciamo e ci ritrattiamo. Tanto lui se l'ha preso qua a casa e quindi ci divertiamo. Ascolta, ma tu vieni tu e Simona, giusto? Esatto, sì, sai così, io e Simona, poi abbiamo al limite dei due bambini, non so, adesso vediamo un pochettino. Vabbè, tu chiamami poi, vediamo di organizzare, ci sto, non c'è problema, dai. Ce la beviamo, sottolineo, ce la beviamo, bene va. Che ha voglia. Già mi organizzo bene, non ti preoccupare, già piglio un po' di birra, la metto in frigo un chilo. Cucù! Fatta dai, fatto, dai, almeno diciamo la faccia del popolo che ci crediamo, dai. Tu ci vieni, Gianni? E se fosse stato a venire soli, sì, sarebbero venuti vicino. Ma se ci sono le donne, mia moglie, non ci viene. No, si può organizzare così, le donne a casa e i maschi in giro, io non c'è problema. Ah, io già che io mi travesto da donna. Sì, già vabbè. Non mi piacciono le donne pelose. Già, là, ci vieni. Tutto rasato, meglio, travestito da donna però, dai. Così accompagno a Gianni. No, ma a parte gli scherzi, ci vieni. Ma quel coso che c'è in paese da te? Come quel coso? E come si chiama quell'affare? L'ho già fatto l'anno. No, claro, l'abbiamo già fatto. Passiamo una serata così... sa, è in giro per il paese, nel centro storico ci sono dei belli, dei bar tranquilli, dai, no, non Tilleri. Ah, per fare una serata diversa, ci vieni? Ehi, quando è? Venerdì, Antonello viene venerdì, sperando che Gianni stia bene, anche lui è Leoncino, dai, tranquilli, senza problemi. Gianni non c'è problema, se accusi c'è il vostro casaro. Ringhiaia. E dopo abbiamo un caffetto da cacchino. Oh, è bella questa. Ah, io già accato, ma andiamo, ti prendi, come si chiama quello, Imodium? Ma sta facendo un cacchio. E colta l'acqua. Forse è roba vitale, non c'è nulla da fare. Via. Ma che, da te ne prendo l'Imodium già? Non dimonio, no, Imodium. Che va, siccome sto ridendo non riesco a parlare, comunque, stai già prendendo quel medicinale lì? Sì, lo sto prendendo, quello lì è, classa come ti si chiama, non mi ricordo, eterogermia. Beh, l'eterogermia dovrei passarti uno o due giorni, non dovresti avere problemi, comunque, ci vieni qua. Germini l'hai mangiato? No, non mi ha risposto ancora, se vedevi metti la donna ti tagli i peli, ma non ci ha dato una risposta. Ah, vengo, no, ma Gianni sto dicendo che si è mangiato la Germini, così hai detto. E per Germina? Speriamo che mi fosse affetto a partire da buffone a due, sgonfiato, che ha proprio tirato di faccia. Mi piace un viso, se dà il tempo di agire i medicinali e credo che già ti passi, dai. Ma cosa c'è, mal di stomaco? Ci fa la pancia dura, nausea. Stasera anche il rimesso, affanculo. Una nausea allucinante. E allora è un virus già. Sì, Antonè, venerdì già va bene, dai, non c'è problema. Facciamo un po' di casino. Aiuto! Ok, a giovedì vi do la risposta, tutte e tre. Anche tutte e quattro non c'è problema. Ci mettiamo d'accordo e così se venerdì notte ci divertiamo. Come da fottire un tanto. Adesso mi devo entrare come cognato. Infatti la mia cognata faccio venire qui, io me ne salgo a casa sua. Con i bambini. Lascio a Simona con i bambini e io me ne vado in giro. Fino alla una e due. Sei voi. Oi, buon volito. Claudio, anche se sto bravo di fuori non c'è niente da fare. Io sono quello tutto cissato, cosa vuoi fare? Però il bicchiere per la. Cioè la mano per il bicchiere già ce l'ho. Un altro. E un bicchiere. Sempre sulla maglia. E se no, se non funziona la mano, me la leggo all'uccello e continuo a bere. Molto pompa, maniaco, mangiatore di bambini. a me avrei cresciuto un pochettino dei figli buoni, ma neanche quelli c'ho ancora. Grazie per la reputazione, vai Antonè. Io c'ho tutti i miei colleghi, mia voce, oh Antonè, tutti i miei colleghi ci sono voci, capito? Non pensare che non mi conoscono, eh. Speriamo di trovarne pochi, se no, oi. Oh, Giuse, ma questa macchina tua è folle, cammina. E già cammina, Ocla, già cammina. Oh, ma gli faremo in folle. Mettiamo le ali mettiamo, e vogliamo. Ma puniamo la benzina prima, però, se no mi fai pignicca. Ma che va, come fai, con chi fai, con Leoncino? Tutti pigiate, già. Sì, Antonio, io mi fido di Giuseppe, guida piano, lui è sempre in folle, che sa macchina anda aria, non anda benzina, aria anda. E allora, già sei tranquillo. No, ma già la metto la benzina prima di partire, non mi frega. 5 euro andare, 5 a tornare, se no va all'aria, già lo sa. Tu, molto pompa, eh? Cazzo, se mi pare che tu, cazzo, sono bennato, siamo arrivati a Sabrassecco. Io pronto sono io. Non sei pronto, Antonè? Tirati la macchina degli invalidi, lo sai che ti manca la benzina per strada. Come faccio per la macchina del tuo fratello? La polo, e non ci sono problemi. La lingua è la canna. Giuse! Dimmi qua. Lascia andare la polo che abbiamo la maglietta, quella double face. Cosa ne fai della polo? Che fate troppo freddo in Kiwi. Ah, è vero. E tra pochino la pelliccia. Lui. E l'anima dei passaggi. Dici, una battuta dietro l'altra, No, guarda tu. Ah, non c'è bisogno della polo, già abbiamo la pelliccia. Già, beh, tu non dici niente. No, stavo pensando che poi il giorno dopo devo tornare al lavoro. Andi a piedi, se ne affutti. Sì. Magari fosse stato di sabato, sì. C'è Puma. No, già, almeno dobbiamo fare 3 del mattino. Ehi, madonna. Ci colleghiamo in radio a mezzanotte. Così, non dobbiamo fare 3 del mattino. Non lo sai, che se mi chiamo che io l'ho già fatto. Diglielo Antonè. Mezzanotte non saranno, io dormo lì, io se fosse ancora capita, ma fino alle 4-5 del mattino ci divertiamo. E io non cosa sarei a fare? Bisogna sventiare lì, non hai capito? Fino alle 5 del mattino ci divertiamo. No, comunque che deve ritornare giustamente prima, che ha impegni giustamente, parte prima, non è un problema, per carità, 1, 2, 3 ore, stare in compagnia non fa male, no dai, perché no, possono partire anche 3 ore, poi giustamente non deve tornare, rientra, che problema c'è? Sì, ma dopo che sei in giostra andatene, non ti piaggi, lo sai come te, no? Allora, l'altra volta ce la siamo fatti tutto il giro di usi, vero Giuseppe? Lasciamo perdere, cazzo, le colture eravamo a braccetto, io e Antonello. Non è vero. Ma te sei accorto, visto? Come che fate bugiate dentro le detto? Visto? Antonello, uscirà, perché la comite mala era. No, sinceramente dai, già era buona, accettabile. A me che non vede mai a me, non ho capito, è vero. Mica c'è un brecco, avanti. Voi Claudio, è me. Oye Gianluca Langhiero, buonasera, ben sentito. Sempre con 4 fatti. Campo, ciao Antonio, ciao Pomponi, ciao anche a te. Non so se c'è anche Gianni, c'è la nominale. Comunque, buonasera a tutta la ruota. Ciao Gianluca. Mi ha sentito sempre da da parte di Barracuda, buonasera. Scappa Gianlu, mi ascolti lì? Sì, ti ascolto proprio. Vabbè, sto uscendo con 2 watt. Ma non senti Gianni, Sì, già lo intendo, già, l'ho detto un po' bassino rispetto agli altri giorni. Perché siamo in ansia stasera, tutti in basso siamo, già va bene, è importante ci sentiamo. E io come mi sto arrivando lì, mi ascoltate? Chiudete al cuffio, prova di Radio 5, da parte mia. E K di Roger, ok, dai. No, silenzio, mi stavo così divertendo. Vabbè, io mi sono solo un secondo al telefono. Al telefono, non potevi avvertire. Stavo facendo la pipì, cosa facevo? Ma era al telefono facendo pipì? Al telefono facendo pipì ero, in pratica. Mi ha fatto uno squillo di sotto, dice vai veloce, sembra che ti pisci addosso. Sicuramente la birra. E mi ha avuto la fila, la verità. A di mezza ha preso a te, non intera. Dopo le altre 23 che si è scolato. Io non fai quelle solo, da mezzo, da 3. Se lo spingo a ragno non prendo la birra. Lo so, costano poco e rendono parecchio, la verità. Ma c'è anche la birra, ho visto che è strana, boh, con mi rischiate con altre cose, io lo stesso, ma non è che mi piaccia la verità. Però se la birra non ti piace. No, ci sono varie birre dai tuoi mischiate con altre cose, con, se non mi ricordo cos'era l'altra volta che l'ho presa, con Zubu mi sembra che non mi ricordo adesso. La birra deve essere birra e buona. Che c'entra? Io ho bevuto birra, la verità, la menta era buona. La verità si ricca, e anche il limone, con la limone c'è la cosa, c'è la Lidl, ed è buona, veramente buona, non ti fa male per niente, perché c'è poco alcol e cose del genere, c'è più limone che alcol, ma se tu bevi ti risetta, meglio della Coca-Cola lanciata se la puoi bere, non ti fa, c'è 0,1 di alcol, figurati. Capagambo. Vabbè, io sono tradizionale, se bevo birra bevo birra, se bevo limone bevo limone, sono un tradizionale, mi piace la roba semplice. E prima mi ha messaggiato, tu prova la birra al limone, quella è lì, tu hai la risposta, ti risetta, ne bevi una mattina e stai più di un'ora e mezza che non c'è chi vi niente, perché ti risetta, è veramente buona, sembra una limonata più che una birra, la vetta, di acqua non c'è niente, non c'è quasi nulla, la vetta. Quindi, basta provarla e poi cominciare stanno. Avanti, le pigliate a Gianni. E il sapore di che cos'hai? Di limone o di birra? Di limone. Allora fai pigliate una limonata. Avanti, Leoncino. A Leoncino ne la diamo al peperoncino. La malta ve ne vai a tutti quanti, cazzo, saranno, non è tocco, ma manco morto di quella roba, esagerato. Fa un raggio, non tocchi neanche morto. Esagio, e pago l'idea che è mio, te la fai del gai. Non lo so dove è peccato Rossi, si è bevuto una bicchiera di vino. No, mio rango non colto. Vai, fammi la birra, io non la mangio al culo. Giuseppe fa come faccio invalido, capito? Non vedo, invece devo vedere già, imballato. Oh, tu, cazzo, sì, cazzo, una moto bomba, tu, cazzo, vai venire via, ma tu, non mi fa abitarmi. mi sta, mamma mia, là. Mi sta facendo nervosia adesso, guarda. Anzi, sta diventando non più nervoso mica io, la verità si dica. Sentite, vai, cosa ha detto, sentite, vai. Stiamo scherzando. Oh, dimmi tu. Senti. Senti, cazzo. L'accento, l'accento. Ah, pensavo che non mi sentisse. No, l'accento, tu. Scappa. Mamma mia, sempre insomma da pedire, sempre a guardate che verrà a me imbriaco qua. Claudio. Attenzione, Claudio. Ecco, mi avete rotto un guscio. Evo. Claudio. Gloria. Ma lo sapevi cosa che è la casa, no? Di Gio Maria. Sì, se ci organizziamo, io voglio andare a trovarlo, l'ho telefonato. Però è brutto un bel male, ragazzi. Per me c'è un bel male, io spero che... Devo andare a trovarlo, e sono riuscito, non sono ancora riuscito a parlarci al telefono, capito? E cappa, anch'io. E da quando sono da Parigi a Sottavarello, c'è... sabato, se sono libero, vengo. Il prelievo e andiamo a trovarlo, dai. Ok, allora prelevami e andiamo a trovarlo. Spero che ci abbia messo qualcosa per ascoltare, almeno a noi delinquenti, se si è ascolto Gio Maria, un abbraccio grande, di pronta guarigione da tutti noi, da tutti noi. Ok, no, bisogna andare, Graziano ci è andato a trovarlo, senza andare tutto in greffa, piano piano, è a casa sua. Io sono andato a trovare all'ospedale alle 8, sono stato a fare l'altra, ma non me l'ho fatta entrare, non me l'ho fatta entrare. E quindi sono dovuto rientrare, ci picchierò e non ammare, dire la fatica. Io sono andato e non l'ho trovato, mi hanno detto che era a casa, era... Chi vuole andare a trovarlo, ma tu non so, io sono a due passi, abito a due passi qua, ma non so a che ora potrei andare. Ho registrato un break, con il vostro permesso lo faccio passare, e allora che non si disturba, certo non nel primo pomeriggio, magari prima di cena, capito? La mattina magari sta riposando, non lo so, bisogna telefonare, se no è un casino, anch'io sono un po' in difficoltà perché non so a che ora andare, capito? Allora, vedi, è stato un break, con la buonasera Claudio Spalviero, Giuseppe Leoncino, Gianni Doppio Rum, Antonio Bombolo, Antonello Barracuda e Company, cambio. Signori, buonasera, capito da questo. Ah, dire. È molto pompa. Stiamo ascoltando, cosa è successo a Gio Maria? Un albero sopra ne è caduto. Ma vuoi una santa? Ma niente di grave. È un po' tutto gessato, il busto già. Madonna, guarda, io stavo leggendo un più, mi raccolgo dei punti sul giornale, ma non mi mancava mai, mi dispiace veramente, Gio Maria. Se c'è andato... Ah, no, che gira educa. Me l'ha abbracciata da parte mia, spero che guarisca presto e che si rimetta di nuovo in sesto, e mi dispiace veramente. Ok, Barracuda, prendi i capogiusi di Lancia. Sì, ti ringrazio, buonasera e ben sentito. E anche a me piacerebbe andare, solo che converrebbe organizzare in modo che, diciamo, tutte queste persone non gli diano fastidio, capito? Non è facile. Poi giustamente un po' di compagnia sicuramente le farà piacere. Solo andare tutti in massa non è tanto bello, capito? Tutto lì, non sai come comportarti. Infatti, io sono, guarda, stressato, cioè sono cose che capitano ogni tanto, se ne succede una, anche a amici miei, da poco un incidente, una mi sembra che c'è anche problema alla schiena, e capito, io voglio mi piace veramente, ma consulenza, purtroppo la vita fa parte di queste cose. Se arrivo più lunghi mi metto il cambio, vai. Ehi, ciao Capri 2, ho sentito anche a te, dai. Ben entrato, e tante cose belle. Sono mi racconto. Cosa ti racconti? Ci racconti un po' qua, un po' là. Hai capito? Stasera c'era un pochettino di momento che ho fatto le moto, perché in campagna già, ricontrollando, tagliando una moto di erba, un po' una porta al puma, cioè quando la si va a finire, fino al 29, e così già sempre andando, fermo non solo. Capito, campagna è fortissimo, no, non mi manca mai, e così va. L'importante, diciamo, che ci sia qualche cosa sempre, perché a tale opzione non mi piace, e non ci riprendi. Eia, ciao Gianni, buonasera, ben entrato, dai. Eia, avanti, Antonio Bombolo. E caffa, tu non mi senti sicuramente, non mi sente. Comunque non saluta Gianni Capri 2, dai. Ti saluta Antonio Bombolo, Gianni Capri 2. Un secondo di bianco per me, non andate via, arrivo subito, subito, subito, un secondo. Grazie Claudio, ciao Antonio, ti sento non bene, il segnale c'è, però la posta non la sento adesso, però ti saluto cordialmente, tu lavo un minuto, da una tavola, ho lasciato un prezzo attaccato, Gianni, mentre io non posso dedicarmi a molte cose, come ho detto l'altra sera, che c'è un cos'è, però uno l'ho lasciato, ho lasciato i tuiti, è quello che sempre, quando posso vediamo la corda, e tutto lì, e... Quindi stasera ne ho approfittato per andare a salutarli, sto un po', e capito, c'è un sacco da fare, ragazzi, mi sono messo in una pentola, e capito, dove non ce l'ho stato, non ce l'ho, ne ho niente, anche con le burocratiche, già come stavo dicendo, sto aspettando, c'è l'autorizzazione a partire, però abbiamo fatto assieme quello della nota delle targhe, quindi mandano tutto assieme, mandano, sto aspettando, speriamo che settimana, perché sta avendo gente a fare dei servizi, ho detto, non mi posso spostare più in tanto, perché devo fare una roba al tachigrafo, ma capito, avete, quindi se non c'è il nuovo targa nuovo, non posso neanche più andarlo, questo è ti mando la giovianale, mi dico che siamo a posto. Per il resto, diciamo che io va bene. Ok, chi c'era altro? C'era Pantulio, le rimetto il cambio con una buonasera. Quanti a te, ne ce la mi senti? Ciao, volete, siete, ciao Gianni, saluto che mi ha ascoltato. Stai bene, ho visto, sei tranquillo. Il puma già l'hai usato, quindi se ho fatto qua in ferie. Era ora almeno, beh. E non è che fa il treno, c'ho il mio short, mi ha comprato il puma mio short, e quello là c'era, c'era una roba mia, e un padre in treno è stato per dire, quindi scopo l'arrivo dopo c'ho il mio da mandare avanti con mio figlio, ho capito, ma per te la vivo io un sicuro, ma per lui mi ha detto, per me, mi ha fatto bene come sono, va bene, ho avuto l'antenna che ti è piazzata, sono passato stamattina, nella via tua, perché stavo andando al campo, stavo andando in via Togliatti, ho visto le cose, una super, aspetta, una Superman non è nato quella. No, quella è una super via 27L, perché l'ho fatta io così. E infatti chiama via 27L della Inter, che chiamala come vuoi, e sono Energy, anzi la chiamano, però pensate tra CTE. Mi ha fatto vedere sui vigilanti, ci ho messo quelli della Grand Plain. E sotto c'è la direttiva che sono costruito io, quella della Grand Plain originale. Ce l'hai vista? Così mi sfuggi tanto me, perché non è però avuto l'antenna, tanto me lo so, la piazza della Grand Plain, bene bene, tutto che noi lo va come si chiama, per vino, dal caso, sono andato, perché che volevo pagare niente, perché c'è il figlio a carico, e che abbia fatto dei conti, speriamo che sia così, intanto lo mando. E tutto l'aumento... solo quello. Meno meno, ogni tanto ne c'è una. Avanti il cucù. Ci mancava solo Dimo, faceva cucù, cucù, cucù, come dire, in croce del tu, cucù, in croce del tu. Se ne racconta una, no, se ne è venuto, ha fatto la casa nuova, nonno, no, noi abitavamo, lui ha toccato il soprattutto e mamma, se abitavamo là sotto, là sopra, vieni zio, cosa gli ha regalato? A noi, non è venuto a cucù, e la mamma c'è nell'abito, e faceva le mezz'ore l'ora, e le ore le scandiva tutte, e la notte non si dormiva, finché un bel giorno, non sei solo, già lo sai. Dammi contorno, come tu sei, come stavi andando via a Muros, Gianni? Questo sono i noi, CB294, per tutti i canali qui, la lancetta al Torreno con il Polo Scala, quindi adesso se mi metto l'occhio in 9.30 poi nel Polo Scala, e io immagino che sto uscendo bene, confini, perché non l'ho più acceso. Io sto scendo con il bugio 21, così sono attaccato e così sono liscio. Guarda un po'. Da 9.30 mi sono sceso a 9.20. Già va bene allora. Già ci mettiamo d'accordo. Non preoccupate, questa valvola. Ok. E i russi terminarono come? Se niente, oggi c'era abbastanza vento. Aspetta che regolo una cosa, scusami. Ok, c'era un po' di vento ma niente di particolare, no, nulla di niente, poca gente, una giornata tranquilla, dai, niente di particolare, tranne il cucù di adesso che non vuole entrare, chissà chi è. Cucù, cucù, cucù. Tu devi fare ciucucciù, ciucucciù. Ma mi ricordo il tempo di che furo, perché c'era una mattina alle 7:30 quando parlava Giuseppe Intipio e faceva... Cos'era l'effetto del microfono? No, le facciamo proprio in diretta la verità. Ogni mattina alle 7:30 e sempre in orario quello. Fino alle 9, poi dove spariva. Entrando e poi c'era il secondo più su. C'era il rompaglio, c'era la tavola, c'era la... mappa e c'era l'antenna, una gran mezzo distrutta, l'hai vista? Sì, l'ho vista già, e tutto questo, siccome ha visto la base della rondaia, mi sembra che l'abbia quasi modulato, però non mi ricordavo, e mi ha detto di briscolore, sì, io ho detto che ho modulato con la madonna di Francesco tante volte, e così, le conoscevo, faccio con i nomi latini, non mi ricordo tutte, c'era una chiave che trasmettevano la rete. Eravamo lì, lunedì notte ha suonato io, Fabio, e poi l'altra domenica scorsa era a Oristano, adesso devo dire che sono lì a Milano da Monteleone, di pomeriggio, un paio d'ore, e capito, già stiamo andando la rotta già. Guardato, visto che era il nome suo, era appeso in quel bar che c'è di fronte, però poi avevo due temori. Due ce ne sono barri, c'è vabbè il bar pasticceria e il bar a fianco. Sì, ma bravo il figlio già. Era abbastanza grande il palco e quello lì, poi quando sono arrivato già c'erano le cose dei malfatti, del barruzzo a così metodo. Ed ero affascinato e sempre l'ho montato in varie fronte, perché ero affascinato da questi ragazzi, ma fatti bene, mi ricordo quando c'era io, il monopattino con il coso, con i cuscinetti, uno dei voli in quella discesa scendeva, erano ben organizzati. Tutto lì, riprendete, rilasciamo a Antonio Bombo, lo riprendi se mi stai ascoltando. Io, ma il cuscinetto dovrebbe essere Trento, non mi sbaglio, quando c'erano gli universitari. Cosa? Ma c'è il, come si chiama, monopattino, con i cabutti, come si chiama, con i cuscinetti. E al Trento, mi scende fino a giù, fino all'emiciclo. Quella era la discesa dei carruzzi, e poi facevano anche la discesa dei monopattini. Ma era una cosa completamente diversa. Carruzzi, cazzo, scendevano scaldabagni tagliati a metà con le ruote, vasche da bagno, di tutto combinavano. Eia! Non ricordo ogni strampata pigliava. Ma tu ricordi già? Ma voi non ricordate quando passava la corso che ti avvertisce la gente? Maledetti che... Sono più puttano di quando che avevo i pipì. Sì, non si vede. Ma racconta, riprendi? Sì, no, volevo dire che c'era anche l'amico di Alghero che abbiamo messo un po' da parte. L'ho sentito, scusatemi. Ah, Gianluca sta lavorando, lascialo lavorare. Gianluca o... Già entra lui, non ti preoccupare, Antonio, c'è un amico... Come si libera, già riprende. Ah, stava lavorando quando l'attaccante dice che era in macchina, ma non credevo che stava lavorando. Ah, penso mi è venuto in mente qualche mesino, l'hai messo da parte. Non mi sembrava giusto, tutto lì. Un amico Gianluca, non c'è problema, già riprende quando vuole riprendere, dai. È al lavoro lì all'ospedale, capito? Quindi ogni tanto scende dalla macchina, poi torna, già, non c'è problema, Antone. Hai fatto bene a ricordarcelo, così ogni tanto lo rilanciamo, dai. Ok, Giuseppe dov'è? Giuseppe, mangiate delle crecche. No, ce l'hai adesso in mano, Cla. In mano ce l'hai? Sì, ce l'ho in mano, quelli non salati, eh. Stai attento, che ti sale il colesterolo. Che cappa. Ciò ti metto il cucume. Già lo sai, io ti metto la... quella che manda i baci, già lo sai? Maledetto. Oia, oia, come sto? Ma dopo, ma perché si appondo scarpi, stai sfasciando lo Smith? Perché sono con il bus 121 finora, modulato, quindi si sta pompando, non sono liscio. Allora, adesso spacco e sono normale. È la massa di nevaria. Vedevo questo 50-24, questo base vecchio a manetta, ha detto, ma molto poco, mi dicevo, ho fatto. vattene via sta radio, ma sto guardando lo strumento, dovrebbero essere intorno ai 4 watt, 4 watt e mezzo. Già va bene, dai, Antonè, siamo in locale, cosa di una frutta, sta caduto. Già arriviamo a tutte le parti, non c'è problema. Antonio Bombo, lo riprendi? Stasera sto provando quella Gigio 700 watt. E proprio incollato a fondo col 3009, non ti ho mai visto così, proprio incollato. Antonio, l'ho dovuto provare perché mi si sganciava il relè, ed ero un po' preoccupato perché cazzo me l'ha mandato a poco Roberto, e invece non era il relè dell'amplificatore, era il relè della radio, perché queste sono tutte a relè, no? Con la cambio 23 ero. Infatti adesso gliel'ho sostituita la cambio 23, perché l'ho aperta, adesso gli ho staccato il relè, l'ho tolto pure e poi gli ho rimpiazzo. E gli ho collegato il 5024 alla Zodiac, quello base che va molto bene. Capito? E quindi per quello lo stavo provando per quello. E già poco mi ha detto quello a fare, minchia, con la cambio 23 che ho osservato in bassa potenza il 9 ne dà 450, in HI lo vedi sale oltre 700, però non è che lo puoi usare così, stavo solo facendo una prova, cioè tutto spento, non c'è problema. Va bene, avanti a chi tocca. Sì, a me, una curiosità, Togli, mi hai ritirato a quello di Cagliari, quello che avevo spedito a Cagliari. Ehi Antonè, sì, me l'ha mandato già un mesetto, però lo sto tenendo sotto controllo perché avevo un problema al relè, in pratica come è stato molto fermo si sono incollate, perché quell'amplificatore è molto professionale, quando tu lo lasci in stand by dalle il consenso per la ricezione, capito? Quindi non c'avevo ricezione, l'ho acceso, solo la ricezione, allora gliel'ho mandato e ha cambiato il relè, ma infatti mi sembrava strano che era quello, perché gliel'ha cambiato il relè, gliel'ha messo nuovo, adattato perché non si trovano. Invece era il relè della radio che praticamente mi scacciava il PTT e quindi lui scendeva in stand by, ha detto boh, di nuovo lineare si è crepato. Ho sostituito la radio e l'ho provato e andava benissimo, quindi mi sono accorto che era il baracchino che non andava, capito? Ah, diciamo che il baracchino non accettava questi problemi, infatti mi sembrava strano, portato lì, sistemato, sicuramente l'avrà provato e te l'avrà spedito tranquillamente funzionante, beh, alla fine era proprio il baracchino. Sì, quei baracchini vecchi, la cambio 23 che c'erano lì di commutazione del PTT, sganciava e agganciava, e quindi ha detto va. Allora ho sostituito la radio, gli ho collegato questa base 5024 e la Zodiac che funziona perfettamente. La KV23 l'ho già smontato, ce l'ho qua sopra il banco, gli ho dato una bella pulita, poi domani me la ripiazzo, intanto sono due saldature, c'è la staffettina che mantiene il relè, domani me la ripiazzo e la riprovo. Se va bene rimetto quella perché guarda, è un'ottima radio veramente. Piccolina ma sincera. Ok, Capri 2, a te il microfono, avanti. Ok, sì, hai ragione. Ho detto che faceva la Capri, anche il pace me lo faceva. Quando rimanevamo un po' fermo, metteva appena un tassi, ma è una fesseria quello a metterlo a posto. Sono ottimi apparecchi che non vogliono mai quelli qua. Perfettamente, io mi ho lasciato i luizi qui, andate bene mesa, hai capito, fate a banca giusto per quando ci siete per salutarvi, ok, Nannino mi prendi, ma tu non mi volete, stavo che è addormentato. No, non è attivo, non sono addormentato, passiamo lì per lì. Mi sto a mezzo drummendi perché sono stanco. Io adesso già la mattina sono all'asilo, siamo alle 8:30 e faccio un po' in viaggio e poi vado alle 3:30, quindi sono in quanto a quello rilassato già. E un po' pelo per quello del cambio delle targhe, fa questo. quali, cioè, dei segnali di radio, come si torni quando cambio? E 9-10, sì, immagino che c'è qualcosa da 9-10 qui su questo apparato, sui nuiti, e io penso che sia il segnale quello, perché l'apparecchio questo non ha fatto mai toccato, nuovo, come il giorno che si trova la fabbrica, quindi il segnale è perfetto, non ci abbiamo mai messo le mani, tocco il marco, per il giorno. Tanto meglio con cui con quelle del corso ne va sul fondo scala, sul fondo scala 9.30, poi vai tranquillo. Cioè, va bene, piccolino, 100 watt, bevo 102 la valvola, questa. Giuseppe purtroppo liscia, purtroppo per lui, quindi si deve comprare quello che arriva, un 49 già. Ah, se fa poco che Giuseppe si pietra l'antenna deve... di Monte Oro, capito, e quindi ci esce bene. Pare già discretamente, mai ho sentito quelli forti, Giuseppe, ma è un bel segnale, una bella radio anche, già va bene, solo che questa, come si chiama, non è come gli altri, ma una specie di ronzio, c'hanno sempre così, perché hai... avevo fretta, come noi che potevo trattenere, da dove la stai portando l'acqua? L'acqua vado lì al primo chilometro per la strada per Sant'Antonio, dopo Sospiano, sarà il primo chilometro, diciamo la fontana si chiama Fette Multa, non so se la conosci, dopo il primo chilometro per la strada di Sant'Antonio, passando per Sospianos, sulla sinistra per una piccola salita c'è una fontana, una sorgente naturale, la prendo sempre lì l'acqua. In estate, capito che facciamo uso, diciamo il frigo sempre, e noi più bidoni e per la porta, la polina non sto più prendendo perché mia moto che era inquinata, quindi ho preferito, diciamo, non correre rischi, ma se mi dici che c'è lì, che la stai prendendo, che è possibile, mi va benissimo, poi riprendi tu per girare. È potabile tranquillamente, ci va moltissima gente, comunque il giorno che la vuoi prendere mi chiami e ti accompagno, così sai il posto e appresso ti porti il bidone o le bottiglie che sia e te la prendi direttamente lì l'acqua. Mi chiami una sera e ti accompagno. E ancora facciamo così, e no, andiamo come al supermercato, potevo ne scendo una, due, che come si chiama, poi adesso del tasse ce ne beve tanta, capito? E quando vado ti faccio uno squillo. E riprendi di nuovo, rilanciamo a Claudio avanti. Giuseppe, riprendi tu. Già, io sto uscendo con 3 watt e mezzo, Salvo a... Sputtanato! Sì, come li ho tutti, ce li dai, bello, il mio me li dai, Paolo di Ussi. 25 per l'Italia, se tutto vi va, a voi se vi racca, ma a parecchio vi va. C'è tre finali. No, io ho il Saturn, però non so quanti ne dia, non credo 25 Antonè. 25 in bande laterali, dovrebbe essere 10, massimo 15 in AM. Sì, ma lui dirà di più, è diversa la cosa. Cambia un modulatore, capito? C'è un finale grosso, un modulatore più alto pilota. È un'altra cosa, capito? Sono uguali in teoria, però cambia tutto. Ah, che cosa sta facendo il furbo? Complimenti, Leon C. Ma muto due. Uno, Tonio. No, io già sto scendo liscio. Io sto scendo liscio, hai capito? Solo il Vatti che c'è questa radio qua, che uscire noi. Io quattro Vatti c'ho. Tu classe c'è 4 Watt, dai, fai una chiacchierata veloce. Io ho 4 Watt, 4 Watt con Zodiac 50-24, B base, vecchio baracchino degli anni 70, cambio. Sì, no, non ti senti nessun canale, già sei con i 4. No, te l'ho detto. No, ma tutto aspetto qua, tutte le radio aspette, c'è solo questa accesa. Voglio fare la brava stasera, dai. Perché io di regola nel 68, non nel Galaxy, Galaxy no. Problemi non me ne dà, ma nella 68 sento in tutti i canali. Ne ha 32 se non sbaglio, o 35, adesso non mi ricordo. Ti sento in tutti i canali, nel Midland, nel Galaxy no. No, 4 watt, dai, intanto siamo tutti in locale, no, non c'è problema. Già va bene ogni tanto, dai. Quando magari c'è confusione, che c'è gente da fuori, c'è propagazione, allora qualche watt in più si può usare, ma così già va bene, mi sento tutti perfettamente. Anche Gianluca c'era, Gianluca. Non è entrato Gianluca Vaghero? No, sinceramente c'è sempre questo segnale sottofondo da parte mia. Che mi arriva un Santiago di Cei, spagnolo, cos'è? Poi non sento, alla propria Gianluca niente ancora. E allora è sceso dalla macchina, beh. Chi c'è rimasto qua, riepilogando? C'è Pomponio, Gianni, che è il malaticcio, Gianni Caprilue, Leoncino e Bombolo. E a Bombolo l'ho rilanciato 4 volte, non mi risponde, a tu? Non c'è Bombolo, no. Antonio! Codice rosso anche lui. Sono tutti caghetti, Vicenti. C'è il virus. Io sono andato a fare la pipì, la verità. Però Gianni è già da stasera e mi ha detto che sta male. E lì non c'è da scherzare, a parte gli scherzi è brutto. Quando non riesci così a bloccare è un casino. E quindi Gianni è scusato. Ma Antonio non l'ho sentito, non lo so. Vabbè. E Giuseppe invece, ma niente greche sì. Ah, io ho smesso. Malvado. Ho smesso di mangiare greche, sì. Mica devi mangiarne un pacco alla volta, ma non tutti assieme, no? Un pacchetto, mi, non li fattura, no? Un pacchetto l'ho mangiato. Ce ne ho 4. Ma ancora mi sono arrivato. Per Nico, domani gliela portiamo. Va bene, cappa. Così, perché la volevo portare stasera, ma passo a prenderti. Andiamo da Nico, no, la giù, no, più bassa, perché qua sono uscito, sono su al centro ecologico e mi sto facendo una passeggiatina con un amico e niente, capito? E quindi mi detto, vabbè, allora niente, allora domani quando esco al lavoro passo a prenderti e gliela portiamo, va bene? Quindi diglielo a Nico, capito? Domani mattina se ci vai, se no già ci vediamo domani mattina, allora già glielo dico io. Ma non c'è problema, già ci troviamo lì. Così sia che la compra dopo, capito? Dite che gliela ha procurata Gabriele, come gli aveva detto. Vabbè, non c'è problema, ok. Avanti, Paracura, Trugioni. Eia, niente di particolare, boh, niente, se era il caso, va, tutto va bene, organizziamo per venerdì, si fa piacere. Passiamo una serata diversa dalle altre, dai, sempre sperando che vada tutto bene. Antonello, a parte mia non ci stanno problemi. Se gli altri sono d'accordo, se no, se non c'è Gianni, aspettiamo che stia bene Gianni, capito? Perfetto, poi le parole che si faccia, dai, una serata diversa dalle altre, non c'è problema. Speriamo che si rimetta prima di venerdì. Speriamo, perché è davvero brutta, l'ho avuta da poco mia moglie, ma era un casino. Era un casino perché poi ti vengono dolori, cose, ed è un manicomio totale, capito? Va bene, avanti Capri. Se viene anche Capri 2, perché no? Capri è molto impegnato, io vi ringrazio, io con un pieno di cose, come finalmente ha trovato, è capito, ogni minuto è prezioso, come ogni minuto è, c'ho ancora da fare anche dei lavori, che devo andare via, come si chiama, a Sindico di Ossi. Delle cose, sono sempre di adesso, ho trovato più incasinato. Per salutarvi altri, sto anche chiudendo perché c'è molto, però diciamo che capita nel Cate Grande e volentieri, e tu mi conosci a fare una persona, però anche io ho le mie cose, perché mi piace alzare in greppa, mi piace più di quanto immaginate voi, però purtroppo capito, non è la ragione che posso dedicare molto spazio ad altre diciamo, scusate che sono presa questa roba burocratica, i documenti di cose varie, però vedi che qualche sera la troviamo e per il momento su questa rotta che alle 10:30 devo fare un programma di televisione, quindi chiudo e adesso tu caccio. Ringrazio Maria, un abbraccio, vedrai, non ci capito lì, però diciamo che troverò anche un minutino a oggi ci sono passato vicino, non ci ho nulla, però diciamo come stavo dicendo bisogna solo fare il momento giusto, l'ora giusta, e quando una persona è convalescente c'è degli orari anche che dobbiamo rispettare. Di nuovo vi saluto a tutti in generale, con un tipi, e rilancio a Giuseppe Lucino. Infatti Giuseppe, io ascolto i finali e poi chiudo. Ciao già, ci sentiamo alle prossime, se coincide, fai un buon lavoro per domani, ci sentiamo, va avanti, popù. Ciao Gianni, buona Pasqua, ci sentiamo a Capodanno, al limite a Natale, non c'è problema. Tutto a posto, va. Se non ci sentiamo vuol dire che dipende da te, cosa vuoi ti dica io. Vuol dire che sono venuto alla finale, ti hanno sequestrato tutto, ma mi auguro di no. Toccati le palle sotto e non c'è problema, auguri. Potresti anche un po' tagliare la monotonia, ecco, alla fine rilassarti un pochettino, o se sei vicino, 2 minuti sei lì senza problemi, anche un'oretta già fa piacere, potresti anche passarla insieme. Niente, un'uscita così, tra amici di baracchino, tutto lì, niente di particolare, fare una chiacchierata, 2 risate, là, stare un po' in compagnia, niente di particolare, per stare tutti insieme, tutto lì, anche un'oretta se ti fa piacere, sperando che coincida la situazione, non dovrebbe darti problemi, ecco, poi giustamente vedi tu. Ciao, ci sentiamo. A domani. Stavi bene, buonanotte. Ciao, Capridu, ciao. E beh, Gianni, doppio root, com'è? Sempre qua, so. Tutto a posto? No, va, va, come è sì. Ai, ai, ai. Bella rotta stasera. È casino, bella rotta. Ah, vabbè. Guarda, è un po' movimentata. Intanto già ci voglio, adesso sono solo 11:20, non devi stare anche io a fare la mummia, cosa devi fare già? Almeno ci sfoghiamo, almeno questo abbiamo per sfogarci un po' me, io stavo sollevando la piramide qua, mentre voi parlavate stavo aggiungendo un baracchino, non so per l'altro, adesso che ho preso più là, quello migliore, capo, passo a rispondere, ho schiacciato tranne più 2 perché aspetta la radio. E anche a me è successo. Se ti lo ripalle, stai sempre facendo, voi, ma cosa? Ma, no, tutta la sera sto usando le 12, la verità, eh. È un'ottima ricezione, va bene. Questo me l'aveva regalato più un certo il Moro. L'ho tutto messo a posto, ho fatto le connessioni a 4 per il Turner, sia in ingresso che in uscita. Basta, lei poi dà una bella pulita, il colore originale, celeste come il Turner, va bene, beh. Funziona perfettamente. L'unica cosa che devo fare è cambiare la penna allo Smith, che me le ha date Gigi, già preparate, e la metto blu, perché quella bianca è molto debole, non si vede, poi è brutta, e le metto la lampadina dello Smith blu, quello glielo fa, o blu o verde ce l'ho. Devo decidere uno o l'altro, adesso domani mi metto, lo apro e te lo faccio. Così questa cura è fatta, e la usiamo ogni tanto. Vediamo se è rientrato Antonio Bombolo, se no riprendi tu Giuseppe, salutando sempre il carissimo Gianni Capridue, ti saluto a te e a tutti i Pulma. Avanti Antonio Bombolo. Giuseppe, riprendi, Antonio non c'è. Vabbè. Hanno salutato Gianni Capridue, l'ho già salutato. Avanti Gianni doppio ru. E io va. Beh, così vi saluto. Saluto tutta la rotta, che mi devo alzare, che stavo cucinando, poco fa ho lasciato tutto in casino. E devo andare a mettere a posto tutto. E cosa hai cucinato di buono? Basta la carbonara. No, ma poi per il resto, vabbè, bistecche così. Stiamo venendo, eh. Ma è stata nuda già, che oggi ho mangiato un'insalata e boom. No, perché l'ho fatta giusta, mi sono regolato. Adesso basta la carbonara, cosa ridere? Mamma mia, come sto? Ci metto 2 minuti a arrivare a casa di Gianni. Qui non c'è problema, io salendo prendo a Pomponio e a Claudio stiamo venendo, eh. E ora così mi lavate i tegami che è tutto finito. Beh, un pezzo d'osso, non è andata nuda. No, l'ho fatta giusta per tutti. Un piatto per uno, non fa male a nessuno. Certo, Giuseppe, male di andata, mangia di un altro banco di Greckes. Ma quanto te ne vai a te? È andata così male a te, oi oi oi. Vediamo che c'è quelli capelli domani che la gente manda a fare una commissione. A proposito di quelli capelli, stamattina l'ha mandato, no? A prendere una cosa. Era l'1:20, 4 non era ancora ritornato. Perché si perde. Sta sempre, si ferma con la gente a parlare, perde un sacco di tempo, capito? perché l'altra volta l'ho mandato io a prendere le sigarette e è tornato subito, ma è andato a piedi. No, in moto va, cazzo, e cazzo a peso non ci fa mai, mi dà la moto e va a me. Però è passato il divieto. È molto ci arriva, è molto ci mette a arrivare gli altri, sì. Ma il giro è già arrivato. Ragazzi, sì, sfuttito ma. Fottito ma. Vabbè, comunque ti fa ridere. Quando si è di malumore lì già ti passa il goccio. Antonè, qualche giorno ti presentiamo belli capelli, mi barra tu. Illuminami, chi è? È un pazzo furioso, uscito dal manicomio, che adesso però sta mettendo la testa a posto, Meglio così, ma chi è, amico di Leoncino? Allora, amico di tutti, e chi non lo conosce ha belli capelli a Sassari, tutti lo conoscono. No, bravo ragazzo, di famiglia come si deve, lo chiamavamo così perché aveva i capelli lunghi lunghi, tutti fatti a boccoli, capito, tipo Rasta, solo che invece di Rasta aveva i piocchi in mezzo. Dio mio, adesso ce l'hanno rappate sicuramente, ancora lunghi ce li ha. No, zero li hanno tagliati adesso. E almeno quello per i pidocchi. E Pompuglio lo conosce, sì? Pompuglio è amico. Sono assieme, bevono la stessa birra. Dio mio, Pompo! Va bene, Pompuglio, tu quando parli bene i capelli mi va bene. Molto pompa. E vai alla massa delle varie, piazza non pagare la birra. Gianni ha chiuso, così. Oh, Gianni è qua, già. Io me l'ho salutato, Non ci ho salutato, mi sto ascoltando. Perché? Parlami intanto. Devo andare a mettere a posto tutto, lascia tutto casino. Vai, metti a posto il turno, io già siamo qua. Sì. Devo lavare tutto, piatti, legami, di tutto. E sei buono, se la prendi tutta la mondezza, domani con un po' di ginocchi. È sempre facile. Non è neanche difficile. Apri la cosa e ti ha buttato la cosa. Belli capelli. Sta combinato, minimo. Guarda, quando Antonello fa così con un pugno è che ha sempre problemi di mal di pancia. Ogni volta fa così. Anche a lui è venuto qualche accuscio. No, l'avrà chiamato sicuramente fratello a sistemare giù. Sicuramente. Non riesco a capire, te lo giuro, cazzo, in quella famiglia, cazzo, non ce n'è uno sano, non ce n'è uno sano, cazzo, se io mi devo preoccupare, abito al terzo piano, mi devo preoccupare di scendere giù, cazzo, sistemare, non riesco a capire, proprio veramente una vergogna, Giuseppe, queste sono le cose della vita, capito, quando non ci accorgo. E vabbè, cazzo, ma cazzo, è arrivato a un certo punto, cazzo, cazzo, ma perché devi, cazzo, devi chiamare l'altra gente per che cosa? Quando uno lì è bello secco, quello lì è secco, petto, che lo vai che danno, cazzo. Giuseppe, ma non hai capito, se non ti nasce, è inutile, ti deve nascere. Avanti, Baracuda. Io vi saluto che mi preparo per domani. Mi ha fatto piacere per una bella chiacchierata con voi, mi sono anche divertito abbastanza, ero un po'. Le risate ci volevano. Se coincide domani, dai, vi auguro buonanotte e buon proseguimento di serata a tutti. Ciao Antonè, piacere nostro, lo sai, quando vuoi entrare a fare due chiacchiere, siamo sempre qua, sempre qua. Per lo meno i soliti ci sono sempre, poi qualcuno fa gli orecchi alla porca, ma non è un problema. Il canale è aperto a tutti, chi vuole entrare, non c'è Pino, se Gianni ci sente bene, ci sentiamo magari giovedì e ci organizziamo, ok? È perfetto, è bello che sia bene Gianni, se a chi fa piacere, la porta è aperta a tutti, volentieri, non c'è problema, va benissimo. Buonanotte e buon proseguimento. Thank you. Siamo tutti insieme già. Pensiamo a te, già ne do più brutti, quando stai bene andiamo. Andiamo sabato sera, me non te la futti nulla, capito? KK, ok Antonè, ti saluto e ci aggiorniamo. Avanti, molto poco, non c'è Giuseppe, riprendi. Sì, ah. Sì, ma allora, non c'è problema, già una sabattina già ce la facciamo, che giorno tanto senza salire al mio paese. E via, va benissimo, buonanotte a tutti. Ciao Antonio, ciao, molto poco. Antonio Bombolo. Sono tutti spariti, so. Antonio lo sparisce così, boh. Mi fa spaventare a volte, sembra che sia caduto a testa a terra. Potessi uscire stava a girare un gaggio in casa su dentro. Sì, vabbè, ma adesso no, perché non stai bene già, non è molto alta la temperatura, c'è un bel venticello tra l'altro. Mi sono coricato la parte dei piedi perché c'è la finestra che lasciandola aperta un po' di venticello passava. Già, no, non c'è grande temperatura, c'è questa brezza abbastanza piacevole, sei tu che non stai bene. E quando è così una rottura di palle, lo so. E ho anche qualche vignetta di febbre. Io. Ti manda la tina a casa domani, capito? Stai a casa domani. Ah, infatti no, non ci torno. Se quando sto bene non ci torno. Mi raccomando. Vai subito, capito? Mi ha tirato la medaglia che c'è. Meglio non parlare, va. Attento molto pompa. Sottolo mio, è andata qui, ora ha chiamato il fratello di nuovo. La seconda è qua. Fratello l'ha chiamato? Al 100%. Prova di dare, ragazzi. L'esaurimento le venendo chissà. Oia, per carità, qua. No. Non ha le colpe di cruda. E cosa vuoi fare Giuseppe? Non è che puoi cambiare la situazione, puoi fare qualcosa, capito? Purtroppo il discorso è quello e non c'è niente da fare. O così o così. Sì, ma ce l'ho tanto caso Oca, ce l'ho tanto come la madre. Io cazzo, l'avrei con tu ora, io altro che a quello di cazzo, se il culo l'avrebbe sollevato da quel cazzo di sedia che c'ha attaccata. Cosa fa la mamma, oh Giuseppe, ma cosa fate la mamma che non fa? Cosa fate? Certo, sicuramente se si trova in forma un cazzo in culo l'avrebbe gelato. Vabbè dai, chiudiamo questo discorso là, perché sennò mi ci girano le palline, mi ci girano a me, altro che, perché so già come la situazione, capito? Non ci voglio neanche pensare, dai, non voglio entrare neanche in merito. Lo so Giuseppe, sono cose brutte e cose tristi, però quando la situazione non cambia, non c'è collaborazione tra fratelli e sorelle, anche a me un po' mi scurcia, capito? Perché lui è lì e qualcosa lo potrebbe anche fare, invece non fa niente, cosa fai? Qualcosa fai? Lui, qua, deve ringraziare che non vedo la buona di Babbo, perché se avrebbe avuto un padre come mio padre, che ai tempi nostri, non sai come ci sarebbe uscito lui da casa. Lui, a male piedi, alla potetina. Lo so Giuseppe, erano altri tempi. Adesso si soffre in silenzio e basta, capito? Per carità. Vabbè dai. Intanto, attenzione, Antonio Bombolo, se ci sei batte un colpo, cambio. Ma è sparito Antonio, qualcosa è successo, non so. Oh. Cioè, se tu non stai uscendo, ho visto un segnale a 9, Santiago 9, Giuseppe. Da te più alto era. E 9 e 10, tramite il lato della cappellice, la cosa della cazzo si chiama, quello che c'è la fila, dai, che risulta proprio che dopo ti fanno i conteggi, hai capito? Ma lì vicino a Nico? Lì la porteria, c'è la CGL, no, ricordo come si dice, l'atto della casa, lo porti a quel diciamo, metro tuo e ti fai conteggio, vedi un po' quanto devi pagare. No, quello diamo lo so fare anche io, non è un problema. È il modo che voglio vedere com'è, perché non avevo mai fatto io così. No, lì me la facevo io, me la conteggiavo io, non è un problema. Però qua non l'ho mai fatto questo. Conteggio la casa, già lo so fare con lui. Non è un problema. È che voglio capire, sono un sacco di voci, di cose, non so se devo scriverle, se non devo scriverle, boh. Infatti, adesso vediamo domani. Lo controllo, vedo quali sono le voci che non capisco. E guardo questo mio amico commercialista, non me le faccio scrivere da lui. Come faccio a dire cosa devo scrivere? Boh. No, il resto già non è un problema, è già pronto il conteggio. Non entra più nessuno, è un lavoro qua. Ehi, tu ti vuoi dire che li porto, sciò? E cappa. E Gianni è andato a mettere a posto. Antonello è palito. E cosa vuoi che ti dica? Sono lì da aver fatto le principali di Antonello, che domani devono andare a lavorare. Ah, boh, non so se era al telefono, che cosa? Oh, stuca, ui, vabbè, dai, ci aggiorniamo domani mattina, dai. Ehi, Giuseppe, dai, io mi faccio questa commissione, così passo anche qua all'ufficio tributi, che c'ho un amico che lavora lì, e faccio... Diamo un'occhiata alle 2F24, tanto il conteggio ce l'ho già pronto e mi faccio compilare con le voci che non ci ho capito niente. E così dopo domani me lo pago se abbigliano in culo Eddie e Limo. Dai, ci aggiorniamo domani mattina o Giuseppe, già sono in giro io. Chi fa prima, ci vediamo da Nicco, ok? Sì, ok, va bene, già sono, rimango in ascolto, va. E anche qua è tutto acceso, se entra qualcuno riprendiamo, se no mi stacco 10 minuti, dai, sentiamo dopo, ciao.